vivo sì per fare. Sono in alto mare e manco so nuotare. Chi me lo fa fare? Andare a lavorare per rompermi la schiena, per dirti non fa male. Parli della vita come se hai provato tutto. Ti lasci con una tipa alla comune a lutto. Cazzo Dio che rabbia mi fai fare brutto. Se solo vedo un ponte stai tranquillo che mi butto. C'è un fratello grande che combatte e fa la storia. Il passato che ci abbiamo non le immagini di poi. Tra i problemi che ci abbiamo cazzo resistiamo ancora. E tu che ti lamenti se l'iPhone non ti prende. Ma tu che cazzo sai che sei cresciuto bene? Cosa di del papino sabbio è che non beve. Con la mamma, coi parenti e tante cene. A scuola accompagnato dalla zia col Mercedes. Noi no, senza soldi, poveri bastardi. Amici di balordi, ma tanto non importa. La viviamo storta, vivo questa vita col sorriso da fallito. Ma è questo che conta. Siamo umani, nati nella merda. Ma veri amici come i cani, giovani malati. Sono fiero dei miei graffi andati. Piangere e soffrire, cadere farsi male quasi quanto da morire. Alzarsi, ricordare gli amici scomparsi. Chiamaci a cacciare, ma sembra meglio, può darsi. Ho cambiato spesso casa perché mia mamma non pagava. In pelliccia a fianco l'uomo, dopo l'ha lasciata. Frigo vuoto, non di nero, pasta in bianco, latte meno. Non lavoro, papà zero, madre stanca, frate incazzato nero. E tu mi chiedi come faccio, vivo col sorriso, vado avanti dimenticando. La tua vita è bella, la mia sta migliorando. Con l'aiuto di nessuno, io ringrazio solo Marco. E se son cresciuto forte, è solo grazie a mamma. Che m'ha cresciuto a volte pure troppe. Eppure mi ha insegnato, che vanno date a volte. Ma la cosa più importante, è che i soldi fanno male. Sono le persone nate già con tutto grazie a papà. Noi che siamo vuoti e senza pane, abbiamo ciò che non hanno le persone. Un sorriso grosso come il sole, che se lo guardi ti può accecare. Siamo umani, nati nella merda. Ma veri amici come i cani, giovani malati. Sono fiero dei miei graffi andati. Piangere e soffrire, cadere farsi male quasi quanto da morire. Alzarsi, ricordare gli amici scomparsi. Chiamaci a cacciare, ma sembra meglio, può darsi. Io so che non mi sbaglio su quello che ti dico. Io forse sto perdendo, ma cazzo sono vivo. Io so che non mi sbaglio su quello che ti dico. Io forse sto perdendo, ma cazzo sono vivo. Sono vivo.